GR24 Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Andiamo subito sulle salite pirenaiche del Tour de France. Ieri Nibali ha attaccato, la maglia gialla Wiggins ha tenuto, mentre ha crollato Evans, e oggi si replica. Ultime montagne, ultimi chilometri all'insù per provare fino in fondo a mettere in difficoltà la maglia gialla Brady Wiggins e il suo connazionale compagno di squadra Chris Froome. Tosti questi due, tostissimi il primo e il secondo della generale del Team Sky, ma il nostro Vincenzo Nibali non è da meno. È l'unico che in questo tour ci ha provato fino in fondo e speriamo lo possa fare anche oggi, fino alla fine. Attaccato nei due tapponi alpini, ci ha provato anche ieri nel primo pirenaico. Oggi si chiude con le montagne, c'è da scalare il Col de Ment, il Port de Balais, il Périssoud, prima di arrivare in salita al Peyragudes. Tappa non lunghissima, di solo 143 km tutte all'insù. Terreno per provare a fare ancora qualcosa ce n'è, prima della parata cronometro di sabato e la passerella domenica sui campi Elisi. Se questo tour dominato in lungo e in largo da due corridori britannici ha ancora un briciolo di interesse, questo merito è tutto di Vincenzo, il siciliano testardo orgoglioso che parla a ragion veduta e pedala rispettando quello che promette. Bello vederlo attaccare fino in fondo, fino alla fine, e non importa se poi alla fine quei due là lo vanno ancora una volta a riprendere. Provaci ancora Vincenzo, per questo stagio Redo 24 Sole 24 Ore, Bagnères de Luchon. Restiamo in Francia, ma stavolta a Parigi. The city Paris, I mean, I don't know a lot about the city. It will be nice to be living here, and for sure I'm interested in what the city has to give me. Non conosco molto della città, ma sarà bellissimo vivere qui. Così come sentite Zlatan Ibrahimovic presentato ufficialmente dal Paris Saint-Germain. Già si dice innamorato di Parigi e della sua nuova squadra. Ma una brutta notizia per lo svedese ex Milan arriva dal fisco transalpino. La portavoce del governo francese infatti ha ribadito che gli sportivi non saranno esentati dall'aliquota al 75% che colpirà gli stipendi superiori al milione di euro. Proprio il caso di Ibra, che di milioni annui ne guadagnerà ben 14. Insieme al bomber svedese, i parigini hanno presentato anche l'altro nuovo acquisto, il 19enne Marco Verratti, arrivato dal Pescara. Giocare con questi grandi campioni che prima vedo solo in televisione per me è solo motivo di orgoglio, è motivo che devo continuare su questa strada e devo dimostrare molto a questa società, perché mi ha dato un'opportunità che a ragazzi di 19 anni non capita tutti i giorni, e quindi devo fare di tutto per ripagare la fiducia che mi ha mostrato questa società. Big che lasciano il Milan, quindi, e Galliani che si stizzisce se qualcuno prova a ricordarglielo. Senta, allora sono andati, cosa si sente di dire? I tifosi sono preoccupati ovviamente. No, ma non c'è niente da dire, dai ragazzi, arrivederci. Ah, un commento. Contrariato dalle cessioni dei rossoneri anche Antonio Cassano, ma il fantasista che sogna il ritorno alla Sampdoria per ora incassa il no di Garrone Junior. Nella vita le strade si dividono e oggi un giocatore del Milan, basta. Ma se ci fosse la possibilità? È bene che stia un po' il Milan, no? Quindi non parliamone più. La Juventus invece punta sempre il fiorentino Jovetic, ma il direttore generale di Viola, Pradè, fissa così la base d'asta. C'è un gentleman agreement e che ci dobbiamo sedere a un tavolo con una cifra intorno ai 30 milioni. Questo è quello che ci ha detto la nostra proprietà e quello che porteremo avanti, e senza contropartite tecniche. 8 giorni ai Giochi di Londra 2012, siamo entrati nel villaggio olimpico con il racconto di Chiara Cainero. Oro a Pechino nel tiro a volo skit. Sentite un po'. Ma guarda, il villaggio olimpico mi sembra di tutte e tre le Olimpiadi che ho fatto forse più bello, cioè mi sembra insomma questi edifici grandi, una bella mensa grande, una palestra grande, c'è solo un piccolo problema che fa freddo e c'è il sole, sembra il kiwi, sembra un cappellino, purtroppo Londra si sa che è così, ma siamo fiduciosi che dal 22 inizia la primavera per loro. E per ora è tutto, ancora una buona giornata.